Wall Street, I viaggi del lupo. E oggi è venerdì 16 giugno 2017, inizia una nuova puntata di Wolf Trips. Io sono Domenico Biancardi, siamo su Radio Lupo e ci abbiamo ad ascoltare un bel po' di buona musica per un'oretta circa. Diciamo che in anteprima che la nostra penultima puntata della stagione, settimana prossima faremo l'ultima puntata molto speciale, molto particolare. Raccoglierò un po' tutti i brani migliori che abbiamo suonato in queste puntate di Wolf Trips. Partiamo subito con un brano molto particolare, molto soft. Lui è Brass Tracks con il brano Melanin Man ed è un brano che mi ricorda un po' un mix tra l'elettronica e altri generi come può essere il jazz o altro, o la soulful house. Andiamo ad ascoltarlo quindi con Brass Tracks, Melanin Man. Running, beating, tucked down, cause our skin hot, shine right through the hate. I'm a king, she a queen, they all know we're great. I know you a fan, ooh, you want my style. Can you rock a paint chain, can you rock my sorrows? I know they're afraid, cause I'm educated. Yeah, yeah, you're looking at greatness. I'm Melanin Man. No, no, no, that ain't a tame, yeah. You're a fan, oh, yeah. My heritage is your new trend, yeah. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, there they go. They so fly. Ooh. Melanin. Il brano in sottofondo è Brass Tracks con Melanin Man. Come dicevo, è un brano che mixa il jazz all'elettronica. Un brano che a me piace molto, l'abbiamo già suonato in Wolf Trips parecchie volte. Sempre molto bello. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano, ci spostiamo un po' sul rap elettronico questa volta. Non,

That fit is supernatural, bro. I've been on some groovy shit. Yeah, I got some groovy kicks. People told me you're legit. Born to win and never quit. Got the status for the kids. Talking said it's so fleet. These some real expensive jeans. Looking good, it cost some G's. And them jeans looking clean. Ain't no need to ever go home. That fit is supernatural, bro. And them jeans looking clean. Ain't no need to ever go home. That fit is supernatural, bro. Fresh style. Got that fresh style. That fit is supernatural, bro. Got that fresh style. Radio Lupo Solitario dal 1979 ti regala emozioni rock. Pubblicizza la tua attività e cresci insieme a noi. Il nostro consulente è a tua disposizione al 349-77-31-166 oppure scrivi a commerciale@radiolupo.it. La tua pubblicità su Radio Lupo Solitario. Questo era il brano di Dro Eloe, Line of the Broken. Un brano bello tranquillo, bello leggero, molto particolare. A me piace molto. E ci sono venuti un po' a trovare un po' di persone oggi, visto che siamo alle ultime puntate, si fanno vivi. Abbiamo Fabio. Ciao a tutti quanti. E Cristina che ha delle facce brutte. Ciao. Ah, ok, perfetto. Ma con questa vocina qua. Adesso facce brutte. Qua l'unica faccia brutta è la Fabio. Mia. No, è la mia. No. Vabbè. Quindi Fabio, mi stavi dicendo che sei venuto con anche, diciamo, con un argomento di cui parlare, giusto? Ma sì, stasera possiamo parlare di reunion, no? Okay. Di reunion proprio ma in senso lato, sia dei gruppi, che in questo momento sto vedendo tanti gruppi che si stanno rimettendo insieme. Sì, so, sì, è vero. I Guns N' Roses adesso dovranno fare un CD. Pensavo che il cantante vivesse col polmone d'acciaio, invece vuole ancora cantare, sempre se canterà lui. Sì, perché si sono separati, erano diventati uno Guns e l'altro Roses. Sì, bravo, c'erano i Roses e Slash in giro che suonava con tutti, faceva collaborazioni con mezzo mondo. No, ci sono diverse reunion, ci sono state anche diverse reunion anche pochi anni fa. Non so se ti ricordi, come si chiamano quelli che cantavano How Do You Do? Che erano famosissimi degli anni 80. I Roxette. Roxette, giusto. Che metà anni 2000 anche loro hanno fatto delle reunion. Cioè ormai va di moda questa reunion. Nella vita bisogna anche fare un po' di reunion. Giusto. E invece tu, Cristina, sei venuta qua per parlare di? Del nulla. Del nulla misto col niente. Vabbè, bravo. Okay, io sparo cazzate così. Perfetto. Va bene perfetto. Così. È perché è un programma. Io mi adeguo. È un programma culturale questo, quindi è giusto così. Molto allora culturale. Io non c'entro niente con la cultura, ragazzi. Io sono il beota della zona. Vabbè, continuiamo con un po' di musica e poi dopo andiamo avanti un po' a parlare di reunion. Quindi. Va bene, noi adesso dicevi reunion. Dicevi reunion nella musica e anche uno nella vita. Nella vita, ok, certo. Ok. Non svegliamo nulla, ne parliamo dopo. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano che è di Jerry Falk con Purple Feelings. Could be what you need, make you feel purple. Let me see what it's like, you're in my circle. Late at night, in your bed, do I cross your mind? Does the moon call my name? I hear it every time. We could try to make it something. Just tell me where to begin. Cause baby, I wanna feel the heat on your skin. Every day my fists are shrinking. I'm palming. We could try to make this something. Make this something. Make this something. Just tell me where to begin. Cause baby, I wanna feel the heat on your skin. On your skin. Every day my feet so Devi sapere, Fabio, che questo artista qua è di Oslo, Norvegia. Sempre in posti caldi tu li vai a prendere, no, le canzoni. Ci vorrebbe in realtà il clima di Oslo oggi, perché col caldo che fa non sarebbe male. Siamo stati minimo 34 gradi oggi. No, in realtà 38 gradi. Ecco, perfetto. A Milano oggi c'erano 38 gradi. C'era l'asfalto. Moriva di caldo. C'era una cappa che era quelle epocali proprio. C'era l'asfalto proprio che si sfondava sotto. Ieri, tra l'altro, ho fatto una strada. Sono passata da un ponte sopra l'autostrada. Credimi, c'era il miraggio. C'era sopra, appena sopra la strada c'era tutta una nuvola, cioè era incredibile. Ho detto, dove sono finita? Poi non passava nessuna macchina, figurati. Erano tutti a casa a fare la pennichella. Sì, infatti. E tu dove oggi hai sofferto il caldo? Ma no, io soffro in silenzio, non ho problemi. Tipo le cammelle, presente? Si fa la scorta. Io basta che ho acqua da bere, poi resisto sempre. Anche ad alte temperature. Questo bisogna bere tanta acqua, minimo una bottiglia e mezza, io mi secco. E tra l'altro anche, diciamo, stavamo parlando proprio di reunion che sono fresche, giusto? Sì, fresche, giusto, fresche, per rimanere in tema. Stavo guardando in giro, negli ultimi anni ce ne sono tantissime. Ce n'è una che continua ogni 10 anni, che sono i Pooh. Si sono riuniti a 40 anni, adesso a 50 anni, a 30 anni. Ma hanno fatto mica il concerto di chiusura. Sì, ma anche 10 anni fa l'avevano fatto, visto? Poi l'hanno rifatto per i 50, quindi sono passati penso un paio d'anni, tra 8 anni c'è i Pooh 60 anni. Bene, ottimo. Questa direi... è, diciamo che è una grande reunion, no? No, poi vabbè, ho visto... qualcosa di interessante, dai. Ma tanti gruppi, cioè, fanno il boom, suonano, poi li dimentico, dopo 10 anni dice, ciao, facciamo una reunion, tipo i Take That. Beh, reunion interessanti, in realtà, non come album, adesso così, a memoria, sono i The Rozer. È vero, che hanno suonato ultimamente. Che non si sono riuniti per fare nuovi album, però per fare nuovi live. Certo. Era da tanto che non suonavano. Salutiamo il grande Sebi di De Rosa. Perfetto. Il cantante. Sì, che questa radio, diciamo, è molto legata poi a questa tipologia di gruppi. Questa radio è cresciuta con le note di Brancadei e delle canzoni di De Rosa. Perfetto. E invece volevo sentire un attimo Cristina. Tu avevi dei saluti da fare, giusto? Sì, volevo salutare quelli che Ivano, ti conoscono, che ci sta ascoltando. Chi è che devi salutare? Non ho sentito? Ivano. Ciao Ivano. Ivano che ci sta ascoltando. Pensavo che volessi dire mi saluto tutti quelli che mi conoscono, tipo le cose quelle in televisione. No, non siamo la Barbara. Saluto la mamma, la nonna e il papà. Queste cose si fanno solo davanti alla Barbara D'Urso. Quindi. Perfetto, qua non c'è Barbara D'Urso. Qua non c'è Barbara D'Urso, anche perché mi ha spento le luci dal caldo, quindi proprio... Si chiama il buio, ragazzi, cioè... Se andate a vedere sulla webcam e non ci vedete, vedete degli esserini neri che... Cioè, immagino, la gente ascolta radio e ci immagina. Noi invece al buio immaginiamo la gente che ci ascolta. Infatti... Mi immagino anche le canzoni che metti, non vedo fino là io. Ecco, infatti, a proposito di canzoni, magari andiamo ad ascoltare... Magari seduti sul divano con il climatizzatore acceso. Giusto. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano, che è una novità di Wolf Trips. Ripeto, ultima, diciamo che è l'ultima puntata delle novità, perché poi la settimana prossima metteremo un po' le best hits del programma e... Ma ci fai la classifica proprio? Ma sai che ci stavo pensando? È una cosa che mi è sempre piaciuta. Alla posizione numero 20 e ascoltiamo. Infatti ti voglio proprio per quello settimana prossima. Andiamo ad ascoltare KD con Lose Myself. Remember when we used to be so close? Skipping summer school to watch the shadows grow. Red cups left on the counter. Cops came, we ran right after. Every now and then I think of when we broke. I know that they will say I'm crazy, but I don't care. You don't have to make me wait, but baby, I'll still be there. I'll never let it hold. I'll never let you walk through hell. I would lose myself for you. And don't you know that all I need's a little bit of company. And I would lose myself for you. Ooh. got a little older, you left home. I stayed behind, got high, then hit the road. I've been just fine without you, but I can't find no one like you. Every now and then I think of when we broke. I know that they will say I'm crazy, but I don't care. Don't have to make me wait, but baby, I'll still be there. I'll never let it hold me down. I'll never let you walk through hell. I would lose myself for you. And don't you know that all I need's a little bit of company. And I would lose myself for you. Questo era il brano di K&D con Lose Myself, che si scrive in realtà Lose Myself, non so quindi come si legge. Strano, pensavo diversamente. Infatti Lose con, normalmente, cioè, sarà un errore voluto, no? Sei... Dici che l'ha cercato? Sì, un po' come faccio io quando scrivo in inglese, cioè io gli errori, e quando parlo gli errori li cerco. Bravo, bravo. Perché io non parlo l'inglese, io parlo un dialetto di Londra, famosissimo Asgarnau. Infatti, infatti. Ma guarda, ti posso dire una frase, Nufeson in sci. New Fusion in sci. È francese. È francese in provincia di Varese. È fantastico, cioè, ascolta. Questa è una chicchetta che mi porto dietro. Noi siamo poliglotti, ragazzi. Giusto, giusto. Non detta da me, ovviamente, diciamolo. Perché... Vabbè, si dice il peccato, non il peccatore. Infatti. Domenico Biancardi! No. È un'altra persona. Io sono molto più poliglotta. Ah. Sì. International. International, bravo, ma international. Tu questo gruppo, da dove arrivano? Perché tu ormai con la cartina geografica ormai l'hai bucarellata tutta. Purtroppo questo gruppo qua non c'ho un cacchio di informazione. Non ti so dire chi cacchio sono. Veneno da Narnia. Apri l'armadio, c'è il CD. No, mi piaceva molto il brano e hanno fatto anche altri brani, però ormai se ne parlerà la prossima stagione di Sultart. Quindi, oppure sulla mia pagina Facebook, sempre di Wolf Trips, magari qualche... Potrebbero non inserirsi nella top 5. No. Assolutamente come, direi di no. Come diceva il egregio signor Domenico Biancardi, grazie. Se non lo sapete, andatevelo a cercare su Wikipedia, cioè. Bravissimi. Non fateli ignoranti con la G maiuscola. Ecco. C'è Wikipedia. Vabbè, continuiamo con un po' col discorso delle reunion, visto che avevi un bello aneddoto da raccontarci. Ma allora, sto guardando tra le varie reunion che stavo guardando su internet, ho visto che ci sono anche i Decibel. Ora, i Decibel... Che ha detto così, io ti direi, così, chi cazzo li conosce? Invece i Decibel hanno fatto la storia della musica italiana nell'ambito rock. Dato che io ho questa vena rock, ti do qualche lezione, qualche pillola. Va bene, va bene. I Decibel è stato il primo gruppo di Enrico Ruggeri, che noi ce lo ricordiamo per quel programma anche in televisione. Ah sì? Bivio. Bivio, il bravo. Bivio. Cosa avrebbe fatto quella sera Domenico, bravo, se davanti alla regia avesse spento il microfono Fabio? E così. Aspetta che proviamo. E niente, loro nel 77 nascono, quindi stiamo parlando più o meno di 40 anni fa. Ecco, sì, fanno i 40 anni, 10, quindi... Ed era proprio un gruppo punk. Solo che ai tempi in Italia il punk non era ancora concepito come all'estero. Quindi loro erano un po' una cosa nuova, diversa. E uno dei loro primi concerti a Milano ebbe un grande successo, perché aveva stampato diversi volantini, a quanto so io, no? E per Milano si era girata la voce e lui pensava di suonare magari dentro ai 20, 30, 40 persone, i classici amici di zona. Si presentò un fottio di gente e da lì il nome ha cominciato a girare nei locali e gli fecero anche un contratto discografico. Però. I Decibel poi sono diventati punk, poi da lì, come tutti i gruppi, un po' si evolvono, New Age piuttosto che, e hanno fatto anche Sanremo i Biscari. Vabbè, però non si sono posizionati molto in alto, perché sicuramente io così secondo me Ruggeri avrebbe detto: se Ruggeri quella sera Sanremo al posto di fare del punk se avesse fatto. Vabbè, continuiamo un po' con la musica di Wolf Trips. Abbiamo sempre passati adesso dai discorsi rock. Adesso andiamo ad ascoltare invece un brano che si, loro si chiamano Fare Soldi e sono di Udine. Questo è un bel bivio. Anche sì, qua sì, Ruggiri sì, avrebbe detto qualcosa. Quindi me, voglio dire, diciamo che il nome degli artisti è eloquente, perché Fare Soldi più di quello. Il brano in realtà è un brano funky house, molto, piacerebbe molto a tuo fratello, che non possiamo nominare. Però diciamo che Il fratello. Però diciamo che ha un bel ritmo. Loro sono Fare Soldi con Carly Carly. Te l'ho detto io che so parlare Carly Carly. Un bel inglese bello International. Carly. Tanto che mi sta crollando tutto qua in regia, volevo presentare il brano che abbiamo appena ascoltato, di cui Fabio aveva anche già una recensione un po' così e così da dire, giusto? Okay, il brano rende. Mi ricorda un po' la musica house. Sì, è funky house. C'è qualche suono che mi ricorda l'house dei primi anni 2000. Loro sono italiani, è una cosa che mi preme sottolineare, visto che solitamente la musica che passo è tutta Oslo, Norvegia, Nuova Zelanda, Australia, tutta roba così. Invece questa volta sono di Udine. E si chiamano Fare Soldi. Infatti sto cercando di contattarli anche per fare un'intervista, dato che tra l'altro ho scoperto che sono veramente su internet, nell'ambito underground, che è un po' la musica che passiamo, sono veramente famosi. Sono molto molto famosi. Ah, urca. Vabbè, detto allora contattiamoli subito. Sì, infatti è una cosa che mi sto proponendo di fare e di riuscire a fare anche, soprattutto. Ci contiamo. E niente, quindi dicevi delle reunion, hai trovato qualcos'altro di interessante? Ma come gruppi, qualche anno fa ci sono stati Take That, che si erano sciolti. Ah, belli. Nell'ambito musicale, ma diciamo sciolti che dove? Si erano sciolti direttamente col Brexit. Loro sono inglesi, sono sciolti direttamente. No, diciamo che nell'ambito musicale ormai è una moda, secondo me, queste reunion. Ma poi valgono a qualcosa. valgono a niente. Ma secondo me tu dici, io faccio un CD, io penso un gruppo, faccio un CD, cavalco l'onda della moda, del momento, del, perché comunque la musica così viene ascoltata quando in quel momento c'è quel filone, è lì che veramente sì. Fai poi passa il filone, fai a passare quei 10 anni, la gente invecchia, diventa trentenne, 35, quarantenne, fai la reunion e allora secondo me è tutto questo di cash. Ma la mia paura è che tu fai il CD, uno si prende il CD nuovo della reunion e poi morta lì. Nel senso, poi non c'è un seguito. Tu guarda, tutti quei gruppi, anche Albano e Romina si erano rimessi insieme a cantare tempo fa, anche di ambito italiano, però hanno il tempo che trovano. Tu guarda, si mettono insieme, cioè i gruppi che abbiamo sentito si mettono insieme, fanno il CD, ma poi dopo non vanno avanti oltre. Cioè, perché non hanno l'impatto mediatico di una volta. Perché se invece ci sono gruppi storici, per esempio, mi vengono in mente i Green Day, che non si sono mai sciolti e vanno avanti per la loro strada. Certo. Diciamo che io, da grande fan dei Green Day, non è che sono sciolti, però hanno avuto un momento per cui la loro musica si è spostata. Vabbè, è normale, è normale, è normale. Linkin Park sono spostati proprio sul pop. Sì. Ma è come ti dicevo, la musica, i gruppi si evolvono. Molte volte è maturazione musicale, perché i gruppi magari maturano di per sé perché sperimenti. Molte volte invece no, il mercato chiede quello e gli artisti molte volte tendono ad affiancarsi a quel filone lì, se no sei fuori del mercato. Tu non hai nulla da dire in proposito? No, non ma hai... è così sia nella musica che comunque nella vita reale, nella vita di tutti i giorni che... Infatti dopo ne parliamo bene, dopo passiamo al discorso invece reunion nella vita reale, che forse è molto più interessante. Comunque, visto che abbiamo parlato anche un po' di evoluzione della musica, possiamo dire un po' che il programma di Wolf Trips è la base. Questo qui è un po' come, non so se ti ricordi, La macchina del tempo che c'era su Rete4, documentario, no? Sì, cioè noi stiamo facendo scienza, noi andiamo a prendere ciò che non è famoso, che diventerà famoso, sì, e tra 30 anni i nostri Fabio, Domenico e Cristina, che saranno qua, parleranno delle riunioni di questi gruppi che noi abbiamo ascoltato oggi per la prima volta. Sì, mi stai facendo un po' Piero Angela della situazione, però vabbè, più o meno dai, così dai. Alessandro, da quanto ho capito, è più figo, quindi ma immaginatevi così. Secondo me è meglio che fai Piero Angela che c'è chi paone, però vabbè. No, è vero, sì. Vabbè, andiamo ad ascoltare adesso un altro brano, possiamo definirlo anche questo funkeggiante, ecco, mettiamola così. Non è, questo non tende molto all'house come quello di prima. Il brano è di Blend e si chiama Back to Summertime. In realtà adesso siamo già nella summertime, nel tempo estivo, col caldo che c'è e le zanzare. Però devo dire, la prima volta che ho passato questo brano effettivamente era ancora aprile, quindi ci sta, no? Back to summertime, ritorno alle cascate d'acqua, perché ha fatto di quelle cascate d'acqua in quel periodo lì. Vabbè, sperando che cambi un po' il tempo, andiamo ad ascoltarcelo. Blend con Back to Summertime. I didn't mean to let you slip my mind, but every day it seems there's just no time. Meant to write, there's just so much to say. When I said the words just fade away in the nighttime. When it's quiet, I still think of you. And all the times we shared that could have been summer love, it seems so true. Can we get back to what we used to be? summertime. Can we get back to summertime? E lui è Blend e arriva da Londra. È un bel pezzo, dai, estivo, sicuramente sì, estivo. Sì, molto, molto ritmico. Molto ritmo, infatti, molto estivo. Continuavo a sculettare, tipo anni 80. Oh, yeah. Sì, sì, sì, mi sembrava anche un po' i Daft Punk nella voce, non, sì, era, non era male, non mi dispiaceva. E quindi andiamo avanti un po' nel su discorso. Questo argomento reunion tirato fuori così. Sì, no, tra l'altro volevo farti notare la base sotto. E se appena inizierei a dire delle cose che immagino, ho un'altra base per dopo. È molto angosciante questa. Questa è una base angosciante perché aspettiamo qualcosa di serio da te. No, beh, allora mettiamola così. Adesso sto diventando il lato serio della situazione, sì, invece sì, sono sempre, sì, più, sì, beota di tutti. Quindi chissà cosa dicono a casa. Dice: ma questo che cazzo ho fatto oggi per essere così intelligente? Mi sono detto, sono puttanate. Sì, infatti. No, nella reunion potrebbe essere nella vita privata, tipo, non so, andare a fare un ritrovarsi con gli amici delle medie, gli amici delle superiori, classiche cene. Non so se ti è mai capito, io devo andare stasera, quindi vedi un po'. Infatti ti vedo che stai sudando. Sì, perché devo rivedere tante persone che non vedo tipo da 10 anni, no? E allora io mi immagino quando ero alle superiori, no? Che tu avevi la compagna di classe che passava, tu eri ancora un pischello, brufolini in faccia, cioè stavi arrivando verso la cecità umana, che passava questa bellissima ragazza, si sedeva sulla sedia e dici: quanto vorrei essere quella sedia, mannaggia la miseria. E adesso la arriverò dopo 10 anni, magari sposata con moglie e figli, che dici: ah, lei, quindi è una ragazza sposata con moglie e figli. Potrebbe essere, adesso sono 10 anni che vedo. Vabbè. Ah, no, è vero, ragazzi. E che ne sai, nella vita c'è ormai, okay, il mondo è aperto, è il momento di della base, no? Che ti dicevo. Ah, ecco, cazzata. Ma no, ma perché nella vita tu non puoi sapere, cioè ormai il mondo è aperto, cioè c'è uomo uomo, donna donna, uomo sì, donna, dai, va bene, cioè, va bene. Non è che possiamo essere così settoriali, infatti, bisogna dai, variare apri un la po'. Mente Domenico, su, bisogna variare un po' nella vita, della musica si varia, dai. No, va bene, ma il te invece reunion con vecchi compagni, ex colleghi, non ti è capitato? No. Io tutti gli anni faccio a Natale una reunion con dei vecchi colleghi. Siamo partiti che eravamo in 5, siamo arrivati in 78 a furia di cambiare lavori. Cioè ci stiamo affittando tutto il ristorante tra un po'. No, io in realtà non ho mai, ho fatto una volta una reunion con i compagni delle medie, pensa te. E sono poi alla migliori, fine. Sì, ma poi alla fine uno era super top manager, l'altro era ho detto vabbè, senti, sì, l'unico pirla ero io. Ma no, ma poi in queste situazioni vengono fuori quegli aneddoti che tu hai rimosso dalla memoria. Sai che tu quando sono delle brutte situazioni la tua mente cerca cancellarle, no? Sì, sì. E allora tu con quelle cene lì parte sempre aneddoto su di te e dici: ma va. Infatti. E tu, Cree, invece hai fatto qualche reunion? No, neanche te, niente. No, zero, no, totale. Anche perché io comunque preferisco la vita da solitaria piuttosto che... Beh, sei nella radio giusta. Sta dicendo una cazzata! No, piuttosto che essere circondata da magari doppie facce che a scuola, quando andavi a scuola ti scornavi e dopo tutti amici. No, non funziona così. Ti rubo la bici. Ti rubo la bici. Un classico. Comunque, io volevo salutare una persona che mi ha scritto che è sul divano col climatizzatore attaccato e qua si muore di caldo. Fa Sei veramente egoista, tanto caldo. Portaci un po' di aria perché fa veramente. O portaci un condizionatore. Portaci il condizionatore, giusto. Ciao Ivano. E grazie per la bella notizia molto. Dopo, ragazzi, che ci state ascoltando, sarete tutti con noi a casa di Ivano. Vi invito io, andiamo a Ivano perché si sta bene. Ivano sul Quindi, divano. Ivano sul fa divano. Fa fresco. Ivano, sboccia un paio di birre che arriviamo. No, guarda, conoscendolo non ti direbbe di no. Ma io non direi di no, sicuramente. Andiamo tutti là, poi là rimaniamo. Andiamo avanti un po' con la musica. Ci spostiamo ad Amsterdam. Un bel posto. Il brano molto bello è Yellow Claw con Good Day. Ed è un brano che in realtà è quasi fuori dall'underground, perché l'ho già sentito in qualche radio. Però visto che è nuovo, ho detto ciao, lo piazziamo subito, perché lo facciamo ascoltare un po'. Poi dopo me lo fregano. Anche perché in collaborazione con DJ Snake, un altro DJ che non conosco, ma DJ Snake è molto famoso. Andiamo a ascoltarlo. Ah, ho capito qual è. Ci giocavo anch'io. Sì, era sì, sul sì. Nokia. Bravissimo, vero. Abita Nokia. Proprio lui. Che effettivamente Nokia è ad Amsterdam, poi, no? Hai visto? Ah, andiamo a ascoltarlo. Yellow Claw con Good Day. You make me feel like all those kids that was supposed to stay the night but change their mind and call their mommy. You are not me, I am dirty. You make me feel like all those kids that was supposed to stay the night but change their mind and call their mommy. You are not me. Remember that day we met for coffee and you were late. Yeah, we chatted about you and you mostly, but a bit about me. And then we went back to yours, and I'd never been there before on the blue line subway. Yeah, I think it was raining. You make me a painting, sing a song about dolphins. check this out. Wall Street, I viaggi del lupo. Questo è un brano nuovo per Wolf Trips, A Nevo con Can't Stop. Senti, siamo tornati dalla pubblicità. Can't Stop, infatti. No, andiamo avanti. Anche lui, se me lo vuoi chiedere, non so assolutamente da dove venga. Male. Ma non si trovano molte informazioni su questi artisti, anche perché sono underground. Facciamo l'underground. Solo che verrà prodotto da un'etichetta molto importante, che magari a te non dice nulla e ai più non dirà nulla, però si chiama Dim Mac Recordings, che all'epoca, quando avevamo una band che si chiamava Brain Shocker, era, a noi interessava molto come etichetta. Perché scopre i gruppi giovani? Scopre gruppi giovani, produce musica elettronica di un certo livello. E li promuove anche. Quindi i ragazzi che ci ascoltano da casa, segnatevelo, sì, contattateli, sì, sì. Tartassateli come facevamo noi da piccoli, che magari uno su 10 vi chiama. Sì, va bene, ok. Vabbè, tu falli credere, nella vita bisogna sperare a qualcosa, no? Sì, infatti. Poi ti metti davanti alla realtà e lì... Vabbè, non siamo tragici, su, dai! Come sei truce. Quindi? Ma abbiamo esaurito il discorso reunion, no? C'era ancora qualcosa da dire? Ma nelle reunion nella vita ce ne sono tante, ci sono anche le reunion di coppia, per dire, coppie scoppiate che si riunono. Però mio padre diceva sempre questo, caro Fabio, la minestra riscaldata non è mai buona, quindi consiglio ragazzi, no. Beh, però gallina vecchia fa buon brodo. È vero, anche questo diceva mio padre. Come la mettiamo? Il grande Franco si contraddice. Come la mettiamo? E poi è meglio un uovo oggi o una gallina domani? Io lancerei un sondaggio. Dammi il numero di Radio Lupo, diciamolo lui. Sì, aspetta un attimino che te lo do subito. C'è il numero di WhatsApp che è 338-222-8983. Aspetta che lo ridiciamo perché magari non ha sentito. Vai. 338-222-8983. Infatti, scriveteci quale tra questi tre detti, se il primo, il secondo e il terzo, è quello che è più nelle vostre corde, dato che siamo in radio, parliamo di musica, di suoni. Ma, no? Ma chi te l'ha detto? Che cosa? Il detto. Ah, tutto mio padre, il grande Franco. È un po' come, non so, il, in Star Wars, il vecchietto Jedi, no? Che ah, è sì, lui che sì, ti istruisce sì, nella vita. E no, poi ti volevo dire un'altra cosa. Prova, già che ci siamo, no? Visto che tu ti lanci sempre in queste cose impronunciabili, prova a lanciare il prossimo brano. E qui allora, qui diciamo che noi a Londra nel nostro dialetto è tipo se mi cambi la pagina anche te. Ah no, no, scusa, hai ragione, hai ragione, ragione. Ragazzi, non è colpa mia, io ci provo. No, no, no, hai ragione, hai ragione. È tipo sgranaso, ok, brothers. What's a nigger? Invece qua io direi The Chemical Brothers. Eh no, è quella la base. No, quella sotto. Oh, è quella la base. Sì. Allora, indicamelo con la freccina. E il nome dell'artista è questo. Ok. Lil Uzi Vert. Ok, è questo tedesco, è il titolo. Senti. XO Tour Life 3. E questo qua è il remix. Ma il remix gli deve interessare, ragazzi. Vabbè, dai. Facade. Oh, parla bene, non dire parolacce. Oh, c'è scritto Facade e Facade. WWFLF Remix. Che sta per Wolf. E tra l'altro ho anche preso la copertina di, sai che io ogni settimana faccio una copertina per presentare il programma. Ho preso la copertina anche dalla sua pagina Facebook. È una grafica molto particolare, molto carina. Mi sa che il lupo va di moda a sto periodo. Anche i Rise Against, tornando nell'ambito sì, rock, hanno fatto un album, non so se esce adesso o è l'ultimo che è uscito, che c'è l'immagine di loro che sono in quattro, che hanno l'immagine del lupo. Ma perché sai com'è, il lupo perde il pelo. Ma ne perde il pelo. E ritorniamo con questa canzone che era molto strong. Sì, sì, sì, perché una bella sonorità cattiva, no? Sì, sì, perché Wolf Trip è in crescendo. Siamo partiti dalla musica soul, jazz, e poi ci muoviamo su, arriveremo anche alla dubstep. Ah, bella, a me piace la dubstep. La so dubstep. Che tu suonavi il dubstep. Sì, sì, sì. Raccontaci sì, qualcosa. Niente, schiacciavo play e stop. Grandissimo. È un grandissimo musicista, ragazzi. Professionale, invece, soprattutto. Noi invece nell'ambito rock suoniamo quattro corde e ruotiamo i microfoni, no? Loro schiacciano quattro tasti. Ragazzi, la musica è finta. Però è divertente, dai. Sì, non, sì. Non possiamo dire nulla, non ci possiamo lamentare, dai. È creatività, come dico ti io. Ti fa compagnia. Ha tanti pregi la musica, ti fa compagnia, ti rilassa, ti fa innamorare, ti fa ballare, ti fa sfogare, è proprio, è tutto. Ma infatti la musica tu la leghi tanto alle emozioni, cioè quanti di noi hanno la canzone che è legata a un certo ricordo, no? Ma anche alla propria personalità. Certo. Allora, facciamo un piccolo gioco, adesso ridiciamo il numero su cui poi magari ci possono scrivere per la prossima volta. Arrangiati te. Sul 338-222-8983 dovete scriverci la canzone che vi dà il ricordo più bello, magari legato all'infanzia, oppure l'emozione più forte, che potrebbe essere qualcosa anche di forte, che ognuno ha avuto. Cioè, vedete che la musica voi la legate a qualcosa. Così la prossima puntata mi direte se sono stato abbastanza pirla per questa stronzata, oppure un po' di intelligenza stasera l'ho portata, dai. Giusto, giusto, giusto. Ma visto che il brano successivo è un remix, devo dire la verità, però è un brano conosciuto, volete dirci qualcosa voi? Del ragazzo che suona questa canzone? Che ha avuto un boom esponenziale. Lui è bravo, eh? Secondo me, come musicista e anche come chitarrista, nel senso, nell'ambito musicale suonato, è bravo. Se i pezzi li ha fatti lui, perché poi nel mondo della musica, sai, te li scrivono, fa, cioè nel mondo vabbè, si bisogna vedere se è autore. Se è autore o se è solo musicista, è veramente è bravo a comporre. Cioè, comunque fa degli stacchi, fa diversi stili. Stiamo parlando di Ed Sheeran, eh? Io stavo andando avanti, ma la gente dice: ma di che cavolo sta parlando questo qui al microfono? No, di Ed Sheeran, cioè, io ho sentito 3-4 canzoni negli ultimi anni che una era diversa dall'altra. Ho fatto anche collaborazioni con Pharrell Williams. Sì, sì. Che quello fa solo collaborazioni. È un po' come Pitbull. Bravo. Pitbull che suona con tutti ormai da solo. E comunque in ogni stile che lui si adopera fa una bella canzone, secondo comunque, me. Comunque, prima di lanciare il brano, che voglio che lo lanciate voi, volevo dire una cavolata su Pitbull, visto che mi hai lanciato sta cosa qua. Avevo letto tipo su internet che si domandavano, no? Ma nelle canzoni compare sempre Fit, scritto F-A-T. Ma chi è Fit? Ah, no. È il cugino di Pitbull, perché canta sempre con lui. C'è Fit, Pitbull e lo Schnauzer. E c'è Versus anche. Versus, famosissimo. Vabbè, quindi dai, non ci resta che lanciare la canzone, la penultima, poi ascolteremo l'ultima e poi allora, saluti. Cristina, te la senti te? Dai, dai, se la vai, sente, vai. Se la sente. Tu dici il nome e io dico il titolo. Ok, Ed Sheeran. Shape of You, Elephant Remix. Ok, wow. Ok, ci siamo, ci siamo. Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. And come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Well, come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. We let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. questo qua è Ed Sheeran con Shape of You, Elephant Remix. Elephant, non Ed Sheeran, viene da Los Angeles. Quindi ci siamo spostati sulla West Coast. No, però possiamo dirlo, non era Ed Sheeran, ero io che cantavo. Sì, sì, no, ma infatti adesso praticamente c'era la doppia voce che ti ho registrato e stava andando tu anche la tua. Tu mixavi e io cantavo, e la Cristina suonava. Sì, nei sogni. Vabbè, quindi questo remix mi pare di aver capito che vi è piaciuto. No, sì, è stato molto bello. Molto bello, molto bene. Mi ha aperto un altro spazietto, ricordi, emozioni, Ed Sheeran. Perfetto. Tra l'altro, ti volevo dire che io Ed Sheeran l'ho intervistato in un film, che non mi ricordo assolutamente qual è il film. Harry Potter. C'era la cavolata tempo fa. Oh, hai visto quello che faceva di Harry Potter che canta e suona? No, ragazzi, non è lui. Gli assomiglia, ci ha giocato su quel fattore lì, ma non è lui. No, c'era un film dove praticamente la protagonista mi sembra fosse Jennifer Lopez. Urca. E lui c'era lì come figurante, non era il protagonista. Comparsa. No, ma in realtà faceva proprio il personaggio. Cioè, il personaggio nel film era Ed Sheeran. No? Ah, ok. E Jennifer Lopez fa finta di. Non lo riconosce, gli chiede di fargli una foto. E lui dice: ah, va bene, mettiamoci in posa, e si mette dietro. E lei gli fa: no. Facci una foto a noi due. Cioè, aveva scambiato tipo una persona del normale, no? Vabbè, ma Jennifer Lopez è tanta roba, cioè, come molto più famosa, quindi se lo poteva permettere. Sì, vabbè, no, ma per dire che comunque è anche molto giocherellone, dai, non è uno che se la tira, mettiamola così. Deve essere proprio una brava persona, dai. Sì. Lo invitiamo a Wolf Street. Sicuro, guarda, stavo pensando è proprio di qua, farlo. Guarda, gli mando un SMS. Mandami un SMS per piacere, dai. Siamo vecchi, ti mando dare WhatsApp. Ciao Ed. WhatsApp. Ciao Ed, videochiamalo su WhatsApp. No, gli sto mandando un messaggio. Ciao Ed, vieni settimana prossima per l'ultima puntata di Wolf Trips. Adesso vediamo se risponde. Anzi, facciamo un gruppo sul numero di Radio Lupo. Mettiamo dentro anche Ciran, così poi quelli che ci ascoltano lo possono chiamare. Giusto. Ecco. E dopo questa marea di cose molto intelligenti di un alto livello, andiamo ad ascoltare l'ultimo brano della serata e poi dopo ci salutiamo. Questo è Gel con Funk Like We Used To, Snare Skin Remix, visto che non mi sono neanche impappinato. I talk a lot of words, I don't know what a worth, why you gotta put me to trial. I do a lot of things, I don't know what it mean, cool it and we'll talk for a while. You're acting fiery, empty findings, shouldn't send us both into war. You think my love is indecisive, we don't gotta talk anymore. I just wanna funk like we used to. I don't wanna go look in rear view. I just wanna funk like we used to. I don't wanna fight when I'm with you. I just wanna funk like we used to. I don't wanna go look in rear view. I just wanna funk like we used to. Like we used to. So I thought if we were fast, we would then get on past all the shit we wasn't about. Turns out that what we need is a flawed history. We were never meant to be proud. You say you finally fed up, you got your bags all packed. We're both out of luck, not gonna chase you. Every dawn to a dusk, I guess it's over now. Oh, it's over now. I don't wanna fight when I'm with you. I just wanna funk like we used to. I don't wanna go look in rear view. I just wanna funk like we used to. I don't wanna fight when I'm with you. I just wanna funk like we used to. I just wanna funk like we used to. Yo, check this out. Wall Street. I viaggi del lupo. E siamo arrivati alla fine. I viaggi del lupo, cioè, giustamente, visto che stanno potendo a fare i pirla, giustamente. E siamo arrivati alla fine. Questa, diciamo che era l'ultima puntata di Wolf Trips, perché settimana prossima sarà un po' una puntata speciale. Sarà una reunion di tutte le grandi canzoni. Ma sai che ci sto pensando anche. E che fa caldo, perché sennò avrei invitato anche un po' i vari ospiti che abbiamo avuto nelle puntate di Wolf Trips. Io direi che invece ce ne stiamo belli tranquilli. Sì. Che già in tre si muore di caldo, mettiamola così. Va. Settimana prossima invitiamo Ivano col pinguino, con l'aria condizionata. Bravo. E almeno 3-4 birre. Bravo. Oh. Facciamo così, allora. Solo 3-4. Allora, facciamo una così. Decina. Apriamo gli studi di Radio Lupo agli amici e familiari. E basta, mettiamola così, va. Magari ricordiamo magari qualche ospite che c'è stato nelle puntate scorse, ma eviterei di invitarlo. Faremo una doppia classifica, no? La classifica degli ospiti e la classifica delle canzoni. Sì, sì, sì. Non sì. sarebbe male come no, idea. Infatti proprio l'idea era proprio quella di fare una sorta di classifica. Tra l'altro faremo una puntata di 2 ore, quindi ne abbiamo di tempo di di dire cose intelligenti. Allora io non ho tempo. Infatti tu non verrai. Allora non verrai. Ci siamo, Fabio. Siamo a casa. Col pinguino. Col pinguino. Sì, sì, invece sono qua con le palme. No, con le zanzare, con le zanzare. Zanzare. Sì, con le zanzare. Beh, fanno compagnia, dai. Sì, sì. Fanno un ottimo suono. Ah, perché sono zanzare? Pensavo che erano elfi io. Vedevo sì. degli gnomi che camminavano. Ma vedi, perché tu ti sei perso una puntata di Wolf Trips in cui abbiamo avuto un gruppo che i Murmur Mori che suonavano, ha suonato anche live. Con questa temperatura, ok. E loro brani, diciamo, si ispiravano un po' alle fiabe, agli elfi e tutto qua. Quindi magari hanno lasciato qualcosa qua intorno. Molto bravi, però, dovevo dire. Molto, molto sì, bravi. Sì, sì, sì. Infatti, magari. Salutiamo. Salutiamo, certo. E magari settimana prossima vedo di fargli una piccola telefonatina. Vediamo. Per salutarli. Va bene, detto questo, direi che ce ne possiamo. Siamo tornare. Arrivati agli sgoccioli, ma dal sudore e dal caldo, mettiamola infatti, così. No? Infatti. Quindi infatti. Dobbiamo chiudere la situazione. Io partirei con i saluti e ci vediamo settimana prossima. Vai, allora, Cri, saluta qualcuno, chi vuoi, saluta. No, io te. Saluto solamente i nostri ascoltatori. Saluto me, ovviamente. Ok, ok. Saluto anche voi, dai. Ok, posso ciao. Fare questo sforzo. Io saluto tutti quanti. Ci vedremo settimana prossima. Ma chi è Quanti? Non lo conosco. E Quanti è cugino sempre di Pitbull. Ah, ok. Cioè Versus, Fetored, Quanti. E Pitbull. E anche tutti. E tutti, bravo. Tutti no, tutti è lo zio. È lo zio. Fratello, zio. Fratello. Ah, il fratello. È una famiglia allargata. Ok, ok. Allargata. Questa era pessima, ma vabbè, facciamo finta di non averla sentita. Perché non ho dietro gli applausi. Chiudiamo subito. C'è le pernacchie qua da farci, ragazzi. Va bene, dai. Vabbè, vi saluta Fabio, vi saluta Cri, vi saluto io e niente, ci aggiorniamo settimana prossima con l'ultima puntata di Wolf Trips. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.